sala in tavola di Nicoletta Carbone. Una sera d'inverno, appena rincasato, mia madre, accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere un po' di tè. Andò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati Madeleine. Appena la sorsata, mescolata alle briciole del pasticcino, toccò il mio palato, trasalì, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Non so cosa sia, ma sale, lentamente. Avverto la resistenza e odo il rumore degli spazi percorsi. All'improvviso, il ricordo è davanti a me. Il gusto era quello del pezzetto di Madeleine che a Combré, la domenica mattina, quando andavo a darle il buongiorno in camera sua, zia Leonia mi offriva dopo averlo inzuppato nel suo infuso di tè o di tiglio. Chiudete gli occhi anche voi, abbandonatevi e pensate alla vostra Madeleine. Anche voi ne avrete una, ne sono certa. C'è sicuramente un piatto, una pietanza, un alimento che è capace di rimetterci in contatto con una parte di noi, di riportarci a un momento della nostra vita, di farci rivivere una situazione, di ritrovare un'atmosfera, perché il cibo è anche questo. Non mangiamo solo per nutrirci, per rifornire il nostro organismo di energia, ma anche per soddisfare il gusto, per piacere, per gratificarci, per consolarci. Voi siete d'accordo? Scrivetemi alla bufala in tavola @radio24.it. Intanto benvenuti ad una nuova puntata. Accomodatevi e mentre voi prendete posto e invitate degli amici, io saluto l'amico della domenica di oggi, che è il dottor Stefano Erzegovesi. Benvenuto. Grazie, buongiorno Nicoletta. Nutrizionista e psichiatra, è un grande esperto di comportamenti alimentari e direi un raffinato conoscitore dei meccanismi che condizionano e motivano le scelte. Dottor Erzegovesi, il cibo assume significati diversi, è gusto, è nutrimento, è piacere, è convivialità, soprattutto la domenica, quando possiamo dividere e condividere la nostra tavola con tanti amici e i nostri parenti. Certo, il cibo è prima di tutto nutrimento, su questo non ci piove, ma contemporaneamente il cibo è comunicazione e quindi noi, giustamente la domenica, quando il tempo è più tranquillo, ma in generale in qualunque momento noi ci troviamo a tavola, ci troviamo nella condizione di comunicare. Bellissima la lettura del brano di Proust, che richiama meglio di quanto può fare un neuroscienziato quanto le vie neurologiche collegate all'assunzione di cibo sono in realtà le vie neurologiche collegate a tutta una serie di funzioni emotive e cognitive, quindi la memoria visiva, la memoria uditiva, il ricordo di emozioni a volte anche antichissime, e ricordiamoci sempre dell'olfatto, il nostro istinto, il nostro senso più antico, quello che più ci avvicina, il cosiddetto cervello rettile, che ci dà delle sensazioni a volte velocissime e immediate, sì, che ci arrivano subito. È un senso un po' anarchico, ribelle. Anarchico e molto veloce, per cui basta un odore che ci piace, che ci ricorda, magari ci apre scenari. E d'altra parte, quante volte noi abbiamo mangiato un cibo perché ci ricordava una situazione particolarmente piacevole e invece rifiutarne uno che era associato ad un ricordo non troppo felice. Questo sì, può essere capitato a tutti. Ma questo ci aiuta anche a capire quante volte noi ci sediamo a tavola per fame, perché vogliamo in qualche modo gratificarci, perché abbiamo bisogno di un momento di pausa. Dottor Erzegovesi, quante cose scopriamo sedendoci a tavola, ancora prima di mettere in bocca un pezzo di pane? Tantissime. Ci sediamo perché abbiamo fame, ma fondamentalmente ci sediamo perché nella ricerca del cibo, in qualche modo, noi troviamo nel cibo un semplice e accessibile regolatore delle emozioni. Quindi noi possiamo mangiare per rabbia, possiamo mangiare per noia, possiamo mangiare per tristezza, per delusione, per senso di vuoto, ma anche per felicità, anche per gioia. Ma questo tendenzialmente, però, la differenza è molto specifica. Se io mangio per gioia, normalmente preferisco mangiare non da solo, cioè preferisco comunque condividere l'esperienza, essere insieme, stare a tavola. in coppia, in compagnia con infatti tante persone. Infatti nel corteggiamento ci si invita spesso a cena fuori. Ci si invita a cena, ci si guarda negli occhi, si profumano le cose. Chissà chi ci sta ascoltando, magari è proprio un pranzo della domenica un po' vicino vicino. Comunque, cibo ed emozione, una relazione molto stretta, questa è un po' il nostro... benvenuto della cucina, l'antipasto di questa puntata, perché anche su questo tema, dottore Arzegovesi, ci sono tante notizie che circolano in rete, passano di bocca in bocca, condizionano i nostri comportamenti, ma che hanno poco o nulla a che fare con la scienza. Ad esempio, mangiamo perché di più perché siamo stressati, vero o falso? Questo è un classico. È verissimo che lo stress influisce sulla nostra, sul nostro desiderio di mangiare alimenti più o meno consolanti, ma spesso dire mangio perché sono stressato è più un cercare una motivazione, una scusante a un'alimentazione emotiva, un'alimentazione troppo abbondante, più che non il vero motivo per cui noi mangiamo. Fondamentalmente lo stress mette in atto tutta una serie di meccanismi che possono essere, a seconda della persona, dei meccanismi per cui mi suscita inappetenza o a volte mi suscita invece un bisogno di nutrirmi in eccesso. Però in generale mangiare perché sono stressato sarebbe un po' come dire mangio perché ho freddo. Così. È allora un modo adesso, per... adesso noi andiamo a sentire, quindi insomma è la bufala della bufala, direi. In qualche modo sì. Allora, adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Voi continuate a mangiare con noi, a cercare la bufala in tavola, perché parleremo della voglia di dolci, è vero che è mancanza di affetto, e anche del carboidrato. Rilassa ma ingrassa, sarà davvero così? Allora continuate a restare con noi per scoprire insieme al dottor Arzegovesi che cosa mettere a tavola. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH vi presenta La bufala in tavola. Vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero, vero che siete tornati, siete arrivati, accomodatevi alla bufala in tavola, vero o falso, smascheriamo le bufale in compagnia del dottor Stefano Arzegovesi. Siamo partiti dal legame stretto, che è vero, certificato, lo proviamo sulla nostra pelle, ma lo conferma anche la ricerca, tra cibo ed emozioni. Ma su questo rapporto circolano anche delle notizie che noi, a cui noi facciamo finta di credere, o che, vero, o che prendiamo come pretesto e come scusa di alcuni nostri comportamenti. E l'importante è saperlo. Ad esempio, dottor Arzegovesi, la voglia di dolci e di carboidrati in genere, pasta, pane, pizze, biscotti, è segno di mancanza d'affetto, vero o falso? Falso. O meglio, ugualmente facciamo la distinzione come dicevamo prima. È sicuramente vero che un'emozione negativa, e la mancanza di affetto è a tutti gli effetti un'emozione negativa perché ci suscita una sensazione di vuoto, ci può chiamare il bisogno di cibo come un bisogno di qualcosa di consolatorio. Ma come dicevamo, il dire mangio perché ho carenza d'affetto, esattamente come dire mangio per un unico motivo, significa fondamentalmente più trovare un motivo per giustificare il fatto che noi mangiamo. A volte noi mangiamo semplicemente perché si crea un automatismo, per cui il fatto di mangiare determinati alimenti, che sono degli alimenti molto gratificanti, quell'alimento chiama se stesso, e quindi io magari ho iniziato a mangiare perché avevo una carenza d'affetto, ma ho continuato a mangiare perché vado a ricercare quello stesso alimento che mi suscita desiderio. Allora, siamo onesti con noi stessi, poi si può assolutamente, siamo tristi, se ci piace cercare in qualche modo una consolazione, però dobbiamo saperlo. Ma va benissimo, basta essere consapevoli. È quello che vogliamo fare. Noi non siamo giudicanti, vogliamo solo informare. Il carboidrato, dottor Arzegovesi, rilassa ma ingrassa. È vero o è falso? Rilassa chi? Prima cosa. Il carboidrato quale? Seconda cosa. Nel senso che è verissimo che ci sono persone, il classico latte, biscotti o il classico dolce prima di andare a letto, che hanno una sensazione di abbassamento della tensione col carboidrato. Però attenzione, dire il carboidrato è ad oggi, per quello che dice la scienza rispetto all'effetto dei carboidrati, è non dire assolutamente nulla, perché è carboidrato un biscotto, ma è carboidrato un riso integrale, è carboidrato un qualsiasi tipo di prodotto, che può essere un primo, un pane, un frutto o altri. Quindi diciamo che un carboidrato che ha un effetto rapido di assorbimento, quindi un carboidrato cosiddetto ad alto indice glicemico. Facciamo degli esempi. Zucchero bianco, pane bianco, gallette di riso, tutti i prodotti, la pizza, tutti i prodotti focaccia, tutti i prodotti a base di farina bianca fondamentalmente, vengono assorbiti rapidamente. In questo rapido assorbimento ci danno spesso una sensazione di immediato appagamento. Appagamento che però paghiamo dopo, perché poi in conseguenza di questo immediato appagamento facilmente andiamo incontro a dei fenomeni che sono dei fenomeni di ricerca ulteriore di quel cibo, piuttosto che di perdita di attenzione o di concentrazione. Quindi il carboidrato di per sé né rilassa né ingrassa, dipende fondamentalmente da cosa scegliamo. Quindi scegliamo dei carboidrati con un indice glicemico basso. Dottor Arzegovesi, ma a proposito, lei che è un grande intenditore, poi uno studioso, un medico, vuole, dato che siamo alla domenica tra di noi, ecco, qual è la sua madeleine? La cosa che già pensarla le fa venire l'acquolina in bocca, la commuove. Ho già la bocca che fa saliva. Io ricordo delle strade disegnate, sembrano quasi fatte per le moto, ricordo i campi di girasole e ricordo quindi la finocchiona toscana o il ciauscolo marchigiano, che sono due salumi molto molto poveri, molto legati alla sapienza italiana di poter usare della materia prima povera abbinandola a spezie, a sale, ogni famiglia con una sua miscela di sapori. Al di là di questo, così, di questo aspetto di genialità nelle cose semplici, io lo ricordo proprio legato a queste mie vacanze in moto di ormai un bel pezzo di anni fa. E, però le mangia ancora, adesso va in moto e mangia ancora. Vado ancora in moto e la mangio ancora, non tutti i giorni, perché ecco, salumi tutti i giorni. Bravo, non va mai bene. Mi dà l'opportunità di così dare anche un'altra informazione. In che quantità e con che frequenza inserisce i salumi, perché i salumi sono un vanto della tradizione italiana. Abbiamo dei prodotti, delle eccellenze straordinarie, e hanno avuto alterne fortune, soprattutto in questo periodo sono stati al centro di numerose polemiche, perché il salume viene considerato come un alimento che può creare malattia, addirittura ecco. Il discorso carni rosse, carni conservate come addirittura cancerogene, cioè come stimoli alla crescita tumorale. Attenzione, il salume, al di là che io lo mangi, quindi anche se non lo mangiassi sarebbe lo stesso, è l'eccesso di proteine rosse e l'eccesso di carni conservate, dove per carni conservate significa tutti i salumi e gli insaccati, cioè quelle carni che hanno dentro dei nitrati, dei nitriti e un eccesso di sale. L'eccesso di carni rosse e di carni conservate è sicuramente un fattore di rischio per alcuni tumori, tumore dell'intestino, del colon o tumori ormonosensibili. Quello che io credo sia un livello di consumo che può essere piacevole per lo spirito, ma contemporaneamente assolutamente non dannoso per il corpo, è il pensare di consumare i salumi nella dimensione di una o due volte alla settimana. Una porzione di salume è tendenzialmente una porzione di una cinquantina di grammi, quindi chiaramente non devo mangiarmi una finocchiona intera, un ciauscolo intero. Ciauscolo si dice? Ciauscolo marchigiano. Ciauscolo sì, marchigiano. Glielo consiglio. No, me ne porti un... che forma hanno? Al prossimo giro in moto, è come un salamotto. Nella borsa ci sta. Sì, nel bauletto. Nel bauletto le fa già venire l'acquolina in bocca. L'immediato legame tra il ricordo, cioè un'immagine mentale che risiede nella memoria, e tutta quella che è fondamentalmente una sensorialità che si prepara al pasto. Io penso a qualcosa che mi piace, la cosiddetta fase cefalica della digestione. Io penso a qualcosa che mi piace e subito comincio a produrre tutte quelle sostanze che mi preparano a digerire. Come me la dica che me la rivendo, una fase cefalica. Sei nella fase cefalica? Fase cefalica, quando uno ha l'acquolina nella fase cefalica. Pensi che bella figura. Mi sembra che tu sia nella fase cefalica. Chissà se nella fase cefalica il nostro prossimo ospite Andrea Fontana, il nostro cercatore di bufale, autore di Io credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news, Oepli Editore. Ciao Andrea. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Anche tu, portaci la tua Madeleine, qual è? Ma guarda, stavo giusto ascoltandovi e la mia è il caffè latte. Mi ricordo, avevo 6-7 anni, mia nonna mi faceva questo caffè con latte, era estate, e questa sensazione, questo gusto, questo caffè con latte mi è rimasto veramente dentro. E ogni tanto cerco nei caffè latte che bevo oggi quel gusto. Il caffè latte della nonna. Che e poi è difficile da ritrovare. Per me, io ho tante Madeleine, ad esempio, a proposito di nonna, la peperonata con l'uovo fritto sopra, una bomba che mia nonna mi dava anche quando ero piccola. Adesso molto meglio di tanti adesso, alimenti veramente, di oggi. Ecco, però era una nonna un po' a rischio. Allora, Andrea, a proposito di gusto, la domanda che vogliamo farti oggi: anche il gusto è fake? Beh, da un certo punto di vista sì, perché se pensi, il gusto ha una componente oggettiva, ovviamente fattuale, per esempio la percezione di dolcezza, di sapidità, ma come anche ricordava prima il dottore Vesi, cognome difficile. Cognome difficile come il Schiolo lì. C'è una componente anche molto controfattuale, immaginaria, culturale, legata all'esperienza, per esempio, del dolce, del salato, dell'amaro, dell'aspro, no? C'è una valorizzazione cognitiva del gusto e del cibo. Se per esempio ti dico succoso, cosa ti viene in mente? In Italia tutta una serie di cibi, se fossimo in America o in Cina, completamente altri. Quindi possiamo dire che le fake news o le notizie falsate, deformate, immaginarie, non solo quindi le notizie false intorno alla costruzione del gusto, hanno oggi un'importanza molto rilevante, no? E anche il marketing su questo ci gioca tantissimo. Pensa per esempio alla frittura. Se io ti dico vieni a mangiare con me una frittura croccante e leggera, sicuramente ti piace di più. Che se tu mi dicessi pesante e unta, molle. Esatto. E molle. Esatto. Certo. Esatto. Senti, ma come allora ci hai spiegato questa relazione che è interessante, ma come agisce operativamente? Allora, ci sono delle componenti naturalmente neurofisiologiche su cui naturalmente non entro. No, anche perché la domenica non vogliamo fare discorsi, addentrarci in discorsi troppo tecnici e difficili, perché diciamo, siamo in riposo. Sul piano sociologico e culturale potremmo dire che ci sono tre C da considerare, cioè il contenuto, il contesto e le connessioni, nel senso che ogni cibo è anche un contenuto, un racconto, e porta con sé delle argomentazioni, no? Quindi il cibo è raccontato in tanti modi, è raccontato come componente performativa, come sistema di amicizia, come modo per stare insieme in famiglia. Quindi la componente del contenuto è molto importante. Poi c'è il contesto, perché noi mangiamo e quindi anche gustiamo i cibi in compagnia piuttosto che in solitudine, piuttosto che in cucina, piuttosto che al ristorante, cioè il contesto in cui avviene, certo, il mio momento alimentare diventa fondamentale. Poi il cibo è connessione, perché come dicevamo prima lo mangi in compagnia oppure da solo, lo mangi in coppia o tra amici. Quindi contenuto, contesto e connessioni diventano fondamentali per costruire la dimensione immaginale e anche per raccontare il cibo in modo più o meno fake. Dottor Arzegovesi, lei sta pensando alle sue strade della moto con i girasoli, anche quello è l'ambiente che fa la differenza? Ad esempio, ma sto pensando anche che lo stesso neurone che porta lo stimolo del gusto, del profumo, si collega salendo con tutta una serie di ramificazioni che sono esattamente quelle che dicevamo ora, che sono ramificazioni del ricordo, della comunicazione, dell'immagine visiva, uditiva. Vedi come vanno d'accordo un sociologo della comunicazione con un medico, nutrizionista e psichiatra. Ho creato una nuova coppia. Allora, grazie ad Andrea Fontana, il nostro cercatore di bufale, noi facciamo una pausa e ritorniamo subito dopo insieme. Parliamo di gusto, non gusto, di pasto e di chi il pasto addirittura lo salta. Tra poco. Dai, Deborah, racconti la borsa tutto il giorno. Dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato. Se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili. Noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. La bufala in tavola. Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo. Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, perché non c'è, non c'è sta, con cui nutrirsi però fino a sazietà. Siamo tornati, no? Io non vi suggerisco la psicodieta, venite a mangiare con noi alla bufala in tavola, cerchiamo di smascherare tutte quelle fake news, leggende metropolitane, notizie che nulla hanno a che fare con la scienza, che possono addirittura danneggiare anche la nostra salute o, perché no, impoverire la nostra alimentazione di gusto e di piacere, perché è anche di questo che parliamo oggi insieme al dottor Stefano Erzegovesi. Eccomelo qua, di nuovo qua con presente, me. Buongiorno. Noi stiamo ricevendo anche tanti ospiti, tanti amici. Abbiamo parlato con Andrea Fontana, il nostro cercatore di bufale, che ci ha messo un po' la pulce nell'orecchio. Ci ha detto anche il gusto può essere fake. Cioè c'è una relazione, un po' ce la raccontano. E noi ci aspettiamo che un piatto sia buono anche perché viene descritto in un certo modo. La frittura leggera e croccante, naturalmente se ci dicessero è pesante, unta, sì, e moscia, molliccia. E molliccia, non ci verrebbe voglia di mangiarla. Continuiamo a parlare quindi di alimentazione e a proposito di psicodieta, noi ne stiamo parlando la domenica, in un giorno in cui solitamente si invitano amici a pranzo, ci si regala un po' di tempo in più per restare a tavola, mangiamo qualche cosa di più buono, magari un piatto che deve essere preparato con maggiore attenzione, richiede delle cotture più prolungate, ma c'è chi addirittura non si siede neppure a tavola e il pasto lo salta a pie pari. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ungaro, che immagino invece mangerà. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Venga anche a lei a mangiare con noi, è direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Rigenerativa Anti-Aging, Ismerian. E dottor Ungaro, con lei, dopo aver parlato di gusto, vogliamo parlare di chi rinuncia al gusto e rinuncia addirittura al pasto. Vogliamo parlare di digiuno periodico oppure intermittente. Il salto della cena, ma non solo, ci sono vari tipi di vari modi per declinare questo digiuno che secondo alcune ricerche scientifiche porterebbe a rallentare i processi di invecchiamento e ci aiuterebbe anche a difenderci meglio dalle malattie. Ogni domenica noi analizziamo insieme ai nostri esperti dei comportamenti, delle che a volte diventano delle abitudini, per valutare quanto c'è di scientifico dietro tutto questo e quali sono i vantaggi e gli eventuali rischi per la nostra salute. Qua non possiamo parlare di gusto, perché chi salta il pasto addirittura o chi fa una restrizione calorica molto severa al gusto in quel momento lì ha deciso di rinunciare, dottor Ungaro. Diamo una definizione, sì, però di questo digiuno, perché ce ne sono allora, di vari tipi. Nicoletta, io credo che sia importante dire questo. Sicuramente non possiamo parlare di restrizione calorica e di digiuno nelle sue varie forme come di una fake news in senso lato, nel senso che ci sono molte ricerche da tanti anni, devo dire, anche da molto prima che questi termini diventassero così popolari. Che confermano degli effetti biologici importanti di questi interventi. Devo dire, per lo più ricerche su modelli animali, anche qualche dato su uomo. Però devo anche dire l'interpretazione che se ne dà e la divulgazione che se ne dà, dal mio punto di vista, assomiglia più a una fake news. Cioè, nulla di tutto questo può essere descritto come la soluzione per ogni problema e per ogni male, insomma, e credo che sia anche un po' prematuro parlare di queste tecniche di alterazione dell'alimentazione come delle certezze in termini di rallentamento dell'invecchiamento. Faccio un esempio molto banale: in alcune persone, non sono poche, il digiuno, di qualsiasi tipo esso sia, rappresenta in realtà un agente stressante importante. Se questo è il caso, questa pratica aumenta i livelli di cortisolo. Il livello di cortisolo è decisamente, se alto, un acceleratore del processo di invecchiamento, perché è catabolico sul muscolo, tende a essere distruttivo su alcune aree del cervello. Dunque, come tutte le cose in biologia, vanno modulate e andrebbero personalizzate. Quindi dottor Ongaro, mi faccia capire. Lei mi dice, a parte che poi parleremo anche con il suo collega, dottor Erzegovesi, proveremo a così descrivere queste forme di digiuno, che possono essere proprio più o meno severe, alcune sono solo delle restrizioni caloriche. Ma in alcune persone, proprio saltare a pie pari il pasto può attivare questo l'ormone dello stress, e questo può tradursi in uno svantaggio e non in un vantaggio, e quindi questo effetto che abbiamo detto anti-aging già viene annullato. Quindi attenzione a chi lo pratica, pensateci, ma parlatene con il vostro medico di famiglia. Possiamo dare questo messaggio, cioè le ricerche ci sono, però attenzione, cautela. Sì. E aggiungerei un piccolo messaggio ulteriore: non credo che queste forme di intervento nutrizionale siano delle modalità per passare da un'alimentazione disattenta a un protocollo invece attento. Cioè, io credo che siano modalità nutrizionali avanzate per chi già ha un buon controllo della propria alimentazione e vuole fare un eventuale salto di qualità in più. Lo stanno utilizzando in questo momento il digiuno intermittente, in particolare questo protocollo di 16 ore di digiuno e 8 ore in cui si concentrano i pasti molti atleti, però bisogna anche dire spesso gli atleti sono abituati a controllare da tantissimo tempo la nutrizione, quindi non credo che si possa parlare di un metodo che va bene per tutti e che debba essere divulgato come una soluzione alla cattiva alimentazione. Può essere interessante per alcuni, ma andrebbe appunto personalizzato, insomma. Parliamo in generale di tre tipi, dottor Erzegovesi, di digiuno. Vogliamo descriverli, così i nostri amici si ritrovano, perché digiuno non è necessariamente solo saltare il pasto, ma può essere anche mangiare una cosa molto leggera. Un tempo si faceva, questo anche per castigo i nostri genitori ci dicevano a letto senza mangiare e non parlare più. Ecco. No, ma in generale, riprendendo quello che diceva il dottor Ongaro, verissimo, la cosa più importante di un digiuno, cioè del giorno in cui non mangio, è mangiare bene gli altri 6 giorni della settimana. Cioè, usare il digiuno come un momento per avere un'alimentazione migliore significa attenzione quando non mangiamo, ma ancora più attenzione quando mangiamo. Detto questo, c'è il digiuno totale, che è quello che giustamente, e io ritengo anche nella mia pratica clinica, quello che non uso mai. Io vedo tristemente gli effetti del digiuno sulle mie ragazze anoressiche che seguo. In quei casi il digiuno alza tantissimo il cortisolo e ha tutti gli effetti un mediatore di stress e di disagio fisico e psichico. Quindi mai digiunare completamente, cioè saltare tutto. Va benissimo un digiuno che comprende, che capita in moltissime culture, sia laiche sia religiose, che è fondamentalmente il cena leggerissimo, quindi colazione da re, pranzo da principe, cena da povero, quindi persone che la sera mangiano 2 mele cotte, una verdura e nient'altro, e aspettano poi di mangiare al mattino successivo. Questo significa non andare a disturbare il meccanismo insulina-cortisolo, che è quel meccanismo che tendenzialmente di notte, non muovendo noi i muscoli, rimane un meccanismo un pochino meno utilizzato. Il 5 più 2 vuol dire scegliamo 2 giorni della settimana in cui mangiamo pochissimo, ma anche qui attenzione, non facciamo digiuno totale nei 2 giorni rispetto ai 5 che mangiamo, ma faremo comunque un'alimentazione che comprenda come minimo una giusta quantità di verdure e una giusta quantità, soprattutto, sottolineato 3 volte, grassi. Se noi facciamo digiuno con i grassi, siamo sicuri che il cortisolo sale meno e siamo sicuri soprattutto di poterlo fare senza poi abbuffarci il giorno dopo, che è l'altro rischio. Dottor Ongaro, vuole aggiungere qualcosa? Perché poi ho una domanda da farle. No, io sono assolutamente d'accordo, aggiungerei come ulteriore modalità di battuta, come ulteriore stimolo, è che in realtà dovremmo sempre parlare di tutto questo in associazione anche con l'attività fisica, perché questo gioco di legame tra introiti e consumi si può ovviamente manipolare intervenendo sull'alimentazione, ma anche intervenendo sull'attività fisica, se facciamo tutte e due ancora meglio, e sono d'accordissimo in un'epoca di tanti disturbi del comportamento alimentare, appunto, di stare attenti ai messaggi estremi, certo, e a così far apparire il cibo come un nemico, perché insomma il cibo è anche la nostra vita, voglio dire, no? Ha parlato di sportivi, usciamo un attimo dal tema digiuno di questo di cui ci siamo occupati adesso per chiederle, proprio prima di lasciarla alla sua tavola della domenica, dottor Ongaro, per chi fa attività sportiva, parliamo di uno sportivo amatoriale, è meglio allenarsi al mattino a stomaco vuoto oppure fare una colazione e senza naturalmente andare a correre o fare pesi con la colazione sullo stomaco allenarsi? Beh, allora qui la risposta dipende moltissimo dall'intensità dell'allenamento, cioè se l'allenamento o se l'attività fisica è un'attività blanda finalizzata principalmente a un po' di lipolisi, cioè sciogliere un po' la ciccia, esatto, una camminata veloce eccetera, potrebbe essere anche fatta a digiuno, fermo restando che comunque sto sommando due stimoli potenzialmente di aumento del cortisolo. Certamente se l'attività è invece intensa, dunque richiede l'utilizzo di glicogeno, è assolutamente sconsigliabile farla in una condizione di vero digiuno, cioè di lontananza da un pasto da più di 3-4 ore, perché in quel caso diventa un'attività appunto catabolica sul muscolo che non ha i nutrienti. Ecco, se non ho i nutrienti mi mangio il muscolo, quindi faccio fatica e mi stresso inutilmente e non ottengo nulla. Dottor Ongaro, la invitiamo di nuovo qui negli studi di Via Monterosa, facciamo anche le dirette Facebook tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Ecco, facciamo di tutto per piacerci, io mi faccio in tre. Forse ancora di più. Insomma, dottor Ongaro, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco, insieme al dottor Stefano Esregovesi. La bufala in tavola. Senti come mangio. Mi piace questa sigletta, senti come mangio, è l'appuntamento dentro la bufala in tavola in cui cerchiamo di imparare a prendere il meglio da quello che portiamo a tavola. Dottore Erzegovesi, io inizio dalla fine, inizio dalla frutta. Frutta. Ecco, frutta, se ne dicono e se ne sentono di tutti i colori, c'è chi dice la frutta fa ingrassare perché è molto zuccherina. No, attenzione, la frutta non va mangiata a fine pasto, mangio solo frutta perché non mangiando le verdure. Poi ci sono i fruttariani che si nutrono solo di frutta. Allora, riprendiamo in mano un po' la situazione, ci dia un'indicazione, ci aiuti a riprendere il passo. Ma il primo punto è cos'è la frutta? La frutta è fondamentalmente acqua, e va benissimo perché è una fonte di idratazione, e fibre, e va benissimo, sappiamo quanto le fibre siano importantissime per la funzione dei nostri batteri intestinali amici, e quindi in generale per il funzionamento non solo dell'intestino ma anche dell'immunità, della salute psichica e di tante altre cose, ma è anche fruttosio. E allora sul fruttosio la questione è, come abbiamo detto per tutti gli altri alimenti, è semplicemente una questione di quantità. Quindi è verissimo che un eccesso di fruttosio può essere un problema, perché l'eccesso di fruttosio comporta comunque un funzionamento del nostro corpo che va in una situazione cosiddetta di sindrome metabolica, cioè in una situazione in cui tende più a trattenere che a consumare quello che mangia. Però l'eccesso di fruttosio non si può avere se noi mangiamo la frutta in maniera naturale. Che cosa quindi vuol dire? Non vuol dire che la frutta non fa ingrassare perché ha il fruttosio, che è poi uno zucchero. Assolutamente, ecco. No, l'eccesso di frutta, se dipende. Una persona mi dice ho mangiato 3 anguri e 2 meloni e 15 mele e 2 kg di fichi, sì, quei bei fichi a maggior ragione che sono anche belli zuccherini, sicuramente è un eccesso. Ma allora il problema rimane sempre quello: noi non dobbiamo dire che fa male la frutta, dobbiamo dire che fa male l'eccesso di frutta. Ma allora potremmo dire che fa male anche l'eccesso di acqua, cioè di una cosa che apparentemente sembra totalmente inerte. Quindi la frutta non fa ingrassare in alcun modo, l'eccesso di frutta fa ingrassare e fa male per tutta una serie di altri motivi, dicevamo, legati alla sindrome metabolica. Quindi attenzione a cosa? A quelle forme di frutta che più facilmente occupano poco spazio nella nostra pancia. Per cui se noi mangiamo tanti succhi o tanti succhi concentrati, chiaramente lì c'è tanto fruttosio, non ci sono le fibre che ci danno un senso di pieno, sono liquide, quindi scivolano più facilmente a livello del nostro stomaco e quindi in questa situazione siamo più portati ad averne un eccesso. Quindi la quantità giusta, abbiamo un dato preciso che sono le linee guida di Harvard per la sana alimentazione che dice 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Noi possiamo dire di queste 5 usiamone 3 per la verdura e usiamone 2 per la frutta. Con questo possiamo mangiare la frutta di stagione. E pochino. Io ne mangio molto di più. Ma sono 300 grammi al giorno. Ma una pesca, due susine. 300 grammi al giorno, lei già mi ha dato un'indicazione. Insomma, diciamo dai, che però al netto degli scarti non è una quantità piccola, tutto sommato. Dottor Arzegovesi, fine pasto, frutta fine pasto, può avere degli effetti magari sulla nostra digestione, sul gonfio addominale, o invece è un problema di sensibilità individuale, una variabile molto importante che dobbiamo sempre tenere presente perché non siamo fatti tutti uguali. Assolutamente, eh? Questo è importante. E meno male. La variabilità è la cosa più bella degli esseri umani. Dobbiamo pensare alla soggettività. Io vedo persone che mi dicono ho bisogno di mangiare la frutta a fine pasto e fanno benissimo a mangiarla a fine pasto perché quel senso di freschezza acida che dà la frutta funziona come uno stimolo sia per digerire meglio sia per finire di mangiare. Cioè io sento la freschezza acida e poi non ho voglia di mangiare altro. Ci sono invece persone che dicono se io mangio la frutta dopo pasto sento di avere una maggiore lentezza e un maggiore gonfiore, che quindi può essere benissimo perché sono persone magari più sensibili alle fibre solubili della frutta e quindi la fibra solubile nel momento in cui viene metabolizzata a livello dei batteri intestinali comincia a produrre fermentazione. Io voglio venire una volta a mangiare con lei, la invito in diretta così. O se no portiamo una cucina toscana. Bravo, questa qua e poi la facciamo. Quindi dottor Arzegovesi, un altro consiglio potrebbe essere di aggiungere la frutta alle vostre insalate. Questo è il mio, ecco, ultimamente la frutta io aggiungo gli acinini d'uva, poi oppure la mela a tocchettini, viene una bontà. Molto buona, sì. Allora, chiudiamo, prima di salutarci, dottore, una raccomandazione. Non improvvisatevi, mi raccomando, esperti di piante, perché si rischia molto. Avete letto i recenti casi di cronaca di questa settimana, famiglie intossicate dal cosiddetto zafferano bastardo che germoglia proprio in autunno, ha un fiore rosa violaceo molto simile allo zafferano. Una coppia di Veneta purtroppo l'ha utilizzato per preparare il risotto allo zafferano e questa scelta è costata la vita, ma anche in provincia di Modena si è avuto un caso, per fortuna risolto positivamente. Allora quindi non improvvisiamoci, ce lo facciamo spiegare da una grande esperta, la dottoressa Franca D'Avanzo, direttore del Centro Antiveleni del Niguarda. Buongiorno dottoressa D'Avanzo. Buongiorno Nicoletta e buona domenica. Grazie. Pochi minuti per informare, non terrorizzare, perché non tutto quello che viene dalla natura è sinonimo di buono, naturale e commestibile. E soprattutto quando è molto bello, perché tutto ciò che è molto bello a volte nasconde delle insidie. Ecco, tranne noi, dottoressa. Ma noi siamo delle eccezioni. Dai, noi non siamo vegetali. Ecco. Il problema, come lei ha detto, è proprio per esempio racchiuso nel colchico. Il colchico è di una bellezza incredibile, ha questi fiori con questi stami che sono assolutamente, questi pistilli che sono assolutamente bellissimi, fiorisce e soprattutto in questa stagione lo si trova molto facilmente in montagna e le persone pensano che sia crocus e a questo punto prendono, fanno il bel risottino. E noi abbiamo avuto tante persone che purtroppo hanno avuto sia intossicazioni modeste fortunatamente, altre che ne hanno viste invece moderate, altre molto gravi e anche morti. Quindi di fatto attenzione quando si va in montagna a fare le passeggiate e non siamo dei botanici esperti, non raccogliamo senza prima far visionare. Si può anche raccogliere, però non consumare senza che qualcuno l'abbia visto. E questo purtroppo capita con il colchico, capita per esempio con l'aconito, un'altra cosa che viene confusa soprattutto in primavera, e sono appunto quelle cose che noi pensiamo essere gli asparagi selvatici. Invece purtroppo non è così, non è così, e noi abbiamo avuto dei casi di addirittura di più persone che sono morte nell'arco di poco tempo perché hanno consumato a più riprese e in situazioni purtroppo di veglia funebre di una morta per aconito, e poi loro stessi hanno subito, addirittura c'è stato un caso che ha coinvolto 18 persone in cui si sono verificati due morti, quindi voglio dire non si scherza nel modo più assoluto. Ecco, lo zafferano, se volete prepararvi il risotto allo zafferano, prendete lo zafferano che si vende nei negozi. Dottoressa, io devo già anticiparle che vorrei fare una puntata con lei per parlare dei funghi. Ecco, anche lì, raccoglitori, siamo tutti esperti di funghi, come tutti allenatori di pallone, tutti medici, però portarci in tavola un fungo velenoso ci fa rischiare la vita o la salute. Dottoressa D'Avanzo, quindi quest'anno è la stagione dei funghi, è una stagione un po' particolare perché è stata un'estate abbastanza secca, ma lei non scapperà perché ritornerà alla bufala in tavola per fare delle raccomandazioni ai cercatori di funghi. Grazie dottoressa D'Avanzo per essere stata con noi, buon lavoro e buona giornata e buona domenica. Grazie a lei anche per tanto, e a lei gli ascoltatori. Dottor Erzegovesi, noi andiamo a mangiare? Mi che cosa mi prepara? Stiamo sul salutare o sul festaiolo? No, festaiolo. Ah, festaiolo. L'ha portato. Festaiolo si fa sicuramente una bella tempura, una bella frittura leggera di verdure, con una bella pastella dove ci mettiamo del saraceno, quindi con un gusto della pastella che è molto più croccante, farina riso e saraceno molto più croccante, molto più sapido, e quindi anche quasi salutare. Dai. Poi ci facciamo ancora un bel piatto unico, no, ci facciamo un bel piatto unico bilanciato, ci facciamo una bella insalata di riso. Magari con del riso integrale o del basmati, quindi un riso comunque a basso indice glicemico, un po' profumato anche, con dei bei funghi, ma funghi raccolti sapendo che siano buoni, che sono dei funghi shiitake, che sono dei funghi saporitissimi e molto salutari. Poi ci mettiamo dentro delle verdure, una macedonia di verdure a cubetti saltate in padella. Ma dottore, è ancora qua che parla, vada a cucinarmi per me. Pronti, porterò piastra elettrica. Allora, grazie al dottor Erzegovesi, grazie a voi che mi avete seguito, vi aspetto domani sempre a mezzogiorno a Obiettivo Salute. Buona domenica da Nicoletta.